Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il monaco di Matthew Lewis, nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Quando la cella fu aperta, Ambrosio si levò e seguì cupamente il carceriere. Fu condotto nella stessa sala della volta precedente e gli stessi giudici gli domandarono se fosse disposto a confessare. Anche questa volta Ambrosio rispose che dal momento che non aveva commesso nessun delitto, non vedeva che cosa potesse confessare. Ma quando il carnefice si preparò a metterlo alla tortura, quando vide gli strumenti di ferro e di legno e risentì nella carne i morsi atroci del dolore, la sua decisione sfumò di colpo. Dimenticando tutte le conseguenze del suo gesto, preoccupato soltanto dalla possibilità di sfuggire al terrore del momento, rese la confessione più completa e particolareggiata. Rivelò le circostanze dei suoi delitti e si accusò non solo di quelli che gli erano già stati imputati, ma anche di quelli di cui nessuno lo avrebbe mai sospettato. Interrogato sulla fuga di Matilde, che aveva destato molta confusione, riconobbe che si era venduta a Satana e che la sua fuga era opera di stregoneria. Si ostinò tuttavia ad affermare davanti ai suoi giudici che da parte sua non era mai sceso a patti con le potenze infernali, ma lo spauracchio della tortura lo forzò a dichiararsi lui stesso stregone, eretico e tutti gli altri titoli che agli inquisitori venne in mente di attribuirgli. Dopo questa confessione, la sentenza fu immediata. Gli ordinarono di prepararsi a morire nel corso dell'auto da fè che avrebbe avuto luogo quella notte stessa, a mezzanotte. Quell'ora era stata scelta perché si pensava che l'oscurità avrebbe reso più tremendo lo spettacolo del rogo e centuplicato l'effetto dell'esecuzione. Ambrosio, più morto che vivo, fu lasciato solo nella sua cella. Nell'udire la sua atroce condanna, aveva creduto di morire. Il tempo che gli restava da vivere era tutto raccolto in una prospettiva di morte, e con l'approssimarsi della mezzanotte il suo terrore si esasperò. In certi momenti si seppelliva in un silenzio di tomba, in altri farneticava come in delirio. Si torse le mani e maledisse l'ora della sua nascita, ma in uno di questi momenti lo sguardo gli cadde sul misterioso dono di Matilde. Subito la sua rabbia si placò. Considerò il libro con attenzione, lo prese in mano, ma immediatamente lo scagliò lontano da sé con orrore. Percorse in lungo e in largo a passi rapidi la cella, poi si fermò e fissò lo sguardo sul punto in cui il libro era caduto. Pensò che almeno là c'era un modo per sfuggire alla fatalità che lo minacciava. Si chinò e lo raccolse. Per un po' rimase indeciso e tremante. Bruciava dalla voglia di provarne le virtù magiche, ma lo spaventavano le conseguenze del suo gesto. Alla fine il ricordo della sentenza scacciò ogni dubbio. Aprì il volume, ma era così agitato che non riuscì a trovare subito la pagina che Matilde gli aveva indicato. Provò vergogna di se stesso e raccolse tutto il suo coraggio. Trovò la pagina 7 e cominciò a leggere ad alta voce. Il suo sguardo si perdeva molto spesso fuori dal libro, cercando ansiosamente di scoprire intorno a lui lo spirito che desiderava vedere apparire non meno di quanto ne aveva terrore. Malgrado tutto, continuò nel suo tentativo e, con voce mal sicura e con frequenti interruzioni, riuscì a terminare le prime 4 righe della pagina. Erano scritte in una lingua che gli era assolutamente sconosciuta. Aveva appena pronunciato l'ultima sillaba che gli effetti dell'incantesimo si manifestarono. Un rombo formidabile, come di tuono, squassò l'aria. La prigione fu scossa fino alle fondamenta, lampi illuminarono la cella e un momento dopo, portato dal vortice di un tornado sulfureo, Lucifero gli apparve per la seconda volta. Ma non aveva lo stesso aspetto della volta in cui, evocato da Matilde, aveva preso la forma di un serafino per ingannare Ambrosio. Apparve in tutta la bruttezza che dal momento in cui fu scacciato dal cielo gli è stata data in retaggio. Le sue membra, solcate dalla folgore divina, ne portavano ancora il segno. La sua forma, smisurata, fluttuava in un'ombra opaca e le mani e i piedi erano armati di enormi artigli. L'ira gli sprezzava dagli occhi e avrebbe terrorizzato anche il più coraggioso degli uomini. Sulle sue spalle monumentali remigavano due immense ali nere e al posto dei capelli si torcevano, fischiando sulla sua fronte, dei serpenti vivi. In una mano reggeva un rotolo di pergamena, nell'altra una penna di ferro. Le saette non cessavano di striare l'aria intorno a lui e i colpi di tuono si susseguivano a così breve intervallo che pareva che la natura intera dovesse polverizzarsi sotto i colpi. Atterrito da una apparizione tanto diversa da quella che si aspettava, Ambrosio perse la parola. I tuoni erano cessati. Un silenzio soffocante regnava nella cella. «Perché sono stato chiamato?» Ambrosio restò per un po' senza poter rispondere. «Sono stato condannato a morte!» Fiatò con voce smorzata mentre il sangue gli si coagulava nelle vene alla vista del suo spaventevole interlocutore. «Salvatemi! Portatemi via di qui!» «E il prezzo dei miei servigi mi sarà pagato? Consenti a farti mio alleato ad abbandonarti a me, anima e corpo? Sei pronto a rinunciare a colui che ti ha creato e che morì per te sulla croce? Rispondi soltanto sì e Lucifero sarà tuo schiavo.» «Ma non vi contentereste di un prezzo meno elevato? Siete sicuro che soltanto la mia eterna perdizione vi possa soddisfare? Spirito, mi chiedete troppo. Fatemi uscire da questa cella, servitemi per un'ora sola e sono vostro per mille secoli. Non vi basta quest'offerta?» «Non mi basta. È la tua anima che voglio. La voglio mia e mia per sempre.» «Demonio insaziabile! Non mi condannerò al supplizio eterno, non abbandonerò la speranza di essere un giorno perdonato.» «Rifiuti? Su quali chimere stai costruendo le tue speranze? Tu, mortale, con la tua vista corta, idiota, infame, non saresti colpevole? Come se dei peccati come i tuoi potessero essere perdonati. Speri davvero di potermi sfuggire? Il tuo destino è già segnato. L'Eterno ti ha abbandonato. La tua condanna è scritta nel libro celeste. Mi sei stato dato e mi apparterrai! Ah, demonio! È falso! La misericordia dell'Altissimo è infinita e ogni pentimento ha diritto al perdono. I miei delitti sono mostruosi, ma io non dispero di trovare pietà. Forse, quando li avrò debitamente scontati... Scontarli, ma... Quale purgatorio è stato mai concepito per delle colpe come le tue? Credi che le tue colpe possano essere riscattate dal biascicare dei bigotti o dalle preghiere senz'anima di qualche monaco piagnucoloso? Sii saggio, Ambrosio. Devi essere mio, sei destinato alle fiamme, ma puoi, per il momento, evitarle. Firma questa pergamena e io ti toglierò da questo posto e potrai passare il resto della tua vita nella ricchezza e nell'ozio in piena libertà. Godi della tua esistenza, approfitta di tutti i piaceri che i tuoi istinti ti fanno ricercare, ma ricordati che dal momento in cui lascerai il tuo corpo, la tua anima m'appartiene e io non mi lascerò frodare del mio credito. Il monaco restò silenzioso, ma dal suo sguardo si capiva che le proposte del tentatore non erano cadute nel vuoto. Lo spirito maligno si accorse che la decisione del monaco era ormai scossa. Raddoppiò i suoi assalti e cercò di fissare il suo smarrimento. Riuscì a dipingergli così bene le angosce della morte, lavorò con tanta cura la sua disperazione e le sue paure, che lo convinse alla fine a prendere in mano la pergamena. Ficcò la penna di ferro nella vena del polso sinistro del monaco. Essa penetrò profondamente e subito si riempì di sangue, ma Ambrosio non sentì alcun male. Il miserabile sistemò la pergamena sulla tavola davanti a sé e si preparò a firmarla. Ma a un tratto arrestò la mano, accennò un gesto di repulsione e scagliò la penna lontano da sé. «Che cosa sto facendo?» esclamò. Poi, voltandosi verso il diavolo con un'aria disperata, «Lasciami, vattene, allontanati, io non firmerò questa pergamena!» «Imbecille!» sbraitò il demonio stizzito, lanciandogli degli sguardi feroci che raggelarono il povero Ambrosio. «È così che ti prendi gioco di me! Va, farnetica nella tua agonia, spira fra le torture e impara a misurare la misericordia dell'Eterno, ma guardati dal giocarti ancora di me in avvenire. Se mi evocherai una seconda volta per lasciarmi partire a mani vuote, è così», disse mostrandogli le dita unghiute e facendo il gesto di strapparsi gli occhi. «È così che ti lacererò con i miei artigli. Su, parla per l'ultima volta. Accetti di firmare la pergamena?» «No, lasciami, vattene!» Bruscamente il tuono strepitò e le saette parvero polverizzare i muri. Di nuovo la terra fu scossa dalle fondamenta, le gallerie sotterranee risuonarono di grida violente e il demonio scomparve sbuffando ingiurie e bestemmie. In principio il monaco si rallegrò di aver saputo resistere agli inganni del tentatore e di aver trionfato del nemico degli uomini, ma a mano che l'ora del supplizio si avvicinava, i suoi terrori di poco prima ricominciavano e la tregua momentanea sembrava aver raddoppiato il loro vigore. La campana batté la mezzanotte. Era il momento fissato per l'esecuzione della condanna. Nel sentir suonare il primo rintocco, il sangue gli si arrestò nelle vene. Gli sembrò di udire bussare la morte e il tormento in tutti i colpi che seguirono. Temendo di vedere da un momento all'altro comparire gli arcieri, quando la campana cessò di suonare, afferrò in un accesso di disperazione il libro magico e, come se avesse paura di riflettere a quel che faceva, lesse precipitosamente le righe fatidiche. Accompagnato dal suo corteo di orrori, Lucifero era di nuovo in piedi davanti al codardo. «Mi hai chiamato!» gridò il demonio. «Ti sei deciso a cedere al buon senso? Accetti questa volta le mie condizioni? Le conosci già? Tu rinunci al paradiso e a ogni speranza di salvarti l'anima, e io ti libero all'istante da questa prigione. Sei ancora in tempo, deciditi prima che sia troppo tardi. Firmerai la pergamena?» «Devo farlo. Il destino non mi lascia scelta. Accetto le vostre condizioni.» «Firma, dunque!» sbottò il demonio, tutto esultante di gioia. Il contratto e la penna insanguinata erano ancora sul tavolo. Ambrosio li prese e si preparò a firmare. Un istante di riflessione lo fece esitare. «Ascolta», vociò il tentatore. «Sbrigati, arrivano! Firma la pergamena e ti porto via immediatamente!» «Che cosa c'è scritto?» domandò. «Mi dai la tua anima senza restrizioni e per sempre.» «E che cosa ne avrò in cambio?» «La mia protezione e l'evasione da questa prigione. Firma e sei libero!» Ambrosio prese la penna, l'appoggiò sulla pergamena e di nuovo il coraggio gli mancò. Provò una paura terribile e ancora una volta lasciò ricadere la penna sul tavolo. «Fantoccio, codardo, pusillanime!» urlò il demonio esasperato. «Basta con le esitazioni! Firma immediatamente o ti sacrifico alla mia rabbia!» In quel momento i chiavistelli della porta scricchiolarono. Il prigioniero sentì un tintinnare di catene e la sbarra di sicurezza cadde a terra. Gli arcieri stavano per entrare. In preda alla frenesia, incalzato dall'urgenza del pericolo e in fuga davanti alla prossimità della morte, atterrito dalle minacce del demonio e non trovando altro modo di scampare al supplizio, lo sventurato cedette. Firmò il contratto fatale e lo consegnò tra le mani dello spirito maligno, i cui occhi, nel momento in cui se lo sentì tra le mani, brillarono di una gioia maliziosa. «Prendetelo!» disse l'uomo abbandonato da Dio. «Salvatemi, portatemi via di qui.» «Aspetta, rinunci liberamente e interamente al tuo creatore e a suo figlio?» «Sì, sì.» «Mi cedi la tua anima per l'eternità?» «Per l'eternità.» «Senza restrizioni né sotterfugi, senza alcuna idea di ricorrere alla divina misericordia.» L'ultima catena cadde dalla porta della prigione. Si sentì la chiave girare nella serratura. Già la porta di ferro strideva pesantemente sui suoi cardini arrugginiti. «Sono vostro per sempre e irrevocabilmente!» urlò il monaco, pazzo di terrore. «Abbandono ogni speranza di salvezza, non riconoscerò altra autorità che la vostra. Ascoltate, ascoltate, vengono! Salvatemi, portatemi via di qui!» «Vittoria! Sei mio per sempre e manterrò la mia promessa.» Stava ancora parlando quando la porta si aprì. Immediatamente il diavolo afferrò Ambrosio per un braccio, spiegò le sue grandi ali nere e si slanciò nell'aria. Il tetto si spalancò davanti a loro e si richiuse non appena furono usciti dalla prigione. La notizia del ratto dello stregone ad opera del diavolo si sparse rapidamente in tutta Madrid e per qualche giorno fu l'argomento preferito del pettegolezzo generale. Poi sopravvennero nuovi fatti, la cui novità bastò ad attirare l'attenzione di tutti, e Ambrosio fu dimenticato come se non fosse mai esistito. Il monaco, portato dalla sua guida infernale, attraversava intanto lo spazio con la velocità di una freccia e, dopo pochi istanti, toccò terra sull'orlo del più scosceso precipizio della Sierra Morena. Benché fosse sfuggito alle grinfie dell'Inquisizione, Ambrosio era ancora insensibile al fascino della libertà. «In che razza di posto mi avete condotto?» disse finalmente Ambrosio con un filo di voce strozzata. «Perché portarmi in un luogo tanto sinistro? Presto, portatemi via di qui, portatemi da Matilde!» Il demonio non rispose, ma continuò a fissarlo in silenzio. L'abate non poté sostenere il suo sguardo e voltò gli occhi da una parte mentre il suo doppio infernale gli sbraitava addosso. «Portarti da Matilde!» continuò, ripetendo le parole di Ambrosio. «Miserabile! Presto sarai con lei, hai ben meritato un posto accanto a lei. L'inferno non può vantare un miscredente più mascalzone di te. Hai bevuto il sangue di due innocenti. Antonia ed Elvira sono morte per tua mano, quell'Antonia che hai violato. Era tua sorella, quell'Elvira che hai assassinato, era tua madre. Trema, abominevole ipocrita, barbaro matricida, stupratore, incestuoso, trema dell'enormità dei tuoi delitti, e tu ti credevi al riparo della tentazione, esente dalle debolezze umane, mondo di ogni vizio. Da quando l'orgoglio è una virtù e l'inumanità non è già un delitto? Sappi, uomo vano, che da molto tempo sei stato segnato come mia preda. Non ti sei certo fatto scrupolo di commettere gli stessi delitti che condannavi negli altri con tanta implacabile severità. Sono io che ho gettato Matilde sulla tua strada, sono stato io a farti penetrare nella camera di Antonia, sono stato io a porgerti il pugnale col quale hai bucato il petto di tua sorella. E sono stato ancora io a prevenire Elvira con un sogno dei tuoi piani ai danni di sua figlia. In questo modo, impedendoti di approfittare del suo sonno, ti ho costretto a aggiungere anche lo stupro, oltre che l'incesto, alla lista dei tuoi crimini. Sentimi bene, Ambrosio. Se avessi resistito ancora un minuto, ti saresti salvato anima e corpo. Le guardie che hai sentito alla porta della tua cella venivano ad annunciarti la grazia. Ma io avevo già vinto, il mio piano aveva funzionato. Non facevo in tempo a proporti un delitto che già ne avevi compiuto un altro. Sei mio, e nemmeno il cielo potrebbe sottrarti al mio potere. Sei mio e non hai scampo. Brucio dalla voglia di entrare in possesso del mio bene. Non lascerai vivo queste montagne. Mentre il demonio parlava, Ambrosio era schiacciato dal terrore e dalla sorpresa, ma l'ultima frase lo scosse dal suo torpore. «Non lascerò vivo queste montagne?» sbottò. «Che cosa vuol dire?» «Perfido! Come sarebbe a dire? Hai dimenticato il nostro patto!» Il nostro patto! Non ho forse già fatto la mia parte? Ho forse promesso altro che di tirarti fuori dalla prigione? E non l'ho fatto! Non sei al sicuro dall'Inquisizione, al sicuro da tutti, tranne che da me, imbecille! Che sei stato ad avere fiducia in un demonio! Avresti dovuto prima stipulare la vita, poi la felicità e la potenza. Allora avresti ottenuto tutto. Le tue proteste arrivano troppo tardi. Preparati a morire. Ti restano poche ore di vita. L'effetto di queste parole sul miserabile turlupinato fu atroce. Cadde in ginocchio e fece il gesto di sollevare le mani al cielo, ma il demonio indovinò la sua segreta intenzione e si affrettò a prevenirla. «Cosa?» urlò, folgorando con un'occhiata imbestialita. «Osi ancora implorare la misericordia divina? Vorresti far finta di essere pentito e ricominciare da capo la tua ipocrita commedia? Rinuncia a ogni speranza di perdono. Ecco come metto al sicuro quel che mi appartiene!» A queste parole conficcò le sue unghie nel cuoio tonsurato del monaco e si slanciò con lui dalla roccia. Gli urli di Ambrosio echeggiarono di voragine in voragine, ma il demonio, schizzando dritto come una meteora, continuò la sua impressionante ascensione fino a che, giunto a un'altezza vertiginosa, si decise a lasciare la preda. Il monaco piombò giù a capofitto attraverso i vortici d'aria sulla punta tagliente di una roccia e cominciò a ruzzolare di precipizio in precipizio finché, maciullato e a pezzi, finì sulle rive scoscese del fiume. Non era ancora morto. Fece uno sforzo per sollevarsi, ma invano. Il sole nascente cadeva a picco sulla sua testa e le mosche delle carogne cominciarono a brulicare su di lui. Bevevano il sangue delle sue piaghe e Ambrosio non aveva le forze per scacciarle. Il loro accanimento raddoppiava l'atrocità delle sue torture e presto le aquile del cielo piombarono su di lui e lo divorarono pezzetto per pezzetto. Poi, vedendo che nei suoi occhi sembrava pulsare ancora la vita, si divertirono a strapparglieli. L'acqua ronzava a pochi passi da lui, ma nel tremendo stato in cui si trovava non poteva spegnere la sete che gli seccava il sangue. Squartato, accecato, divorato vivo dagli insetti e dalle bestie feroci, Ambrosio impiegava il poco di coscienza che gli restava a sfidare il cielo, causa del suo martirio, e a insultare la morte che si avvicinava. Passò così 6 miserabili giorni, perdendo a poco ogni forza, ma respirando sempre, accanito a vivere. La mattina del 7° giorno scoppiò una tremenda tempesta. Gli elementi furiosi si scagliarono a raffiche sugli alberi, sradicandoli. Il cielo era a volta nero di nuvole o infiammato dalla folgore che lo spaccava in due. Cadde giù una specie di diluvio che gonfiò smisuratamente le acque del fiume. Le onde andarono a rompersi sulle rive e raggiunsero il punto in cui si trovava il corpo di Ambrosio. E quando la loro furia si placò, si ritirarono, trascinando con loro il cadavere del reprobo. E ora, chi è senza peccato, scagli la prima pietra.